Salve amici di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 24 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e la ricetta di oggi è ciambellone a radicchio con banana e noci. Ingredienti per 6 persone: un cespo di radicchio rosso, una banana, 200 g di noce sgusciata, 300 g di farina 00, 250 g di zucchero, 3 uova, la scorza grattata di un limone, una bustina di lievito per dolci. Preparazione: sfogliate il radicchio e tagliatelo finemente. A parte tritate le noci. Affettate la banana a rondelle. In una ciotola capiente rompete le uova. Aggiungete lo zucchero e lavorate con il mixer fino ad ottenere un composto spumoso. Con una spatola incorporate la farina. Unite dunque la scorza di un limone, le rondelle della banana, le noci tritate e il radicchio. Dopo aver amalgamato bene, unite il lievito e continuate ad amalgamare. Infarinate lo stampo a ciambella. Scaldate il forno a 180 gradi e cuocete per 40 minuti. Dopo aver sfornato, servite la vostra torta tiepida e, se volete, aggiungete lo zucchero a velo. Buon appetito! Il vino consigliato di oggi è Gewürztraminer, servito freddo. Questa era la ricetta numero 24 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima qui a Radio Big World. E un grazie ai nostri ascoltatori.